Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus Italia, unica zona protetta da oggi. La vice ministra dell'economia Castelli parla di stop a mutui e bollette per le famiglie. La Lombardia pensa di chiudere anche i trasporti. Rigidi controlli al Brennero, italiani bloccati a Malta. Intanto in Cina appena 19 nuovi casi di contagio e l'italiana Dia Sorin annuncia un test diagnostico rapido entro il mese di marzo. La rivolta nelle carceri, 23 evasi da Foggia ancora ricercati dalla polizia, 3 vittime anche a Rieti per il metadone. Afghanistan, l'esercito americano avvia il ritiro, ma il paese è nel caos con 2 presidenti autoproclamati. Boom di ascolti in TV per le comunicazioni di Conte. Ieri sera è quasi il 40% di ascolti per il ritorno di Montalbano. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Iniziamo ancora con una pagina dedicata a coronavirus. Italia da oggi dunque è un'unica zona protetta e in attesa di vedere gli effetti positivi sul contenimento del contagio, il prossimo aggiornamento ci sarà stasera alle 18, come sempre le nuove misure di fatto aumentano le pressioni alle frontiere con il Brennero dove si annunciano rigidi controlli e Malta che blocca i collegamenti con l'Italia, ma sull'isola ci sono migliaia di connazionali. Allora iniziamo da qui. Aumentano di ora in ora i paesi che impongono restrizioni per chi arriva dall'Italia, in alcuni casi veri e propri blocchi. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato poco fa un blocco degli ingressi dall'Italia e sono 7 i paesi che hanno aggiunto restrizioni tra ieri sera e stamattina. Stop totale ai trasporti da e per l'Italia imposto da Malta, Libano, Serbia, Marocco. Già in vigore il blocco delle Maldive. Quarantene obbligatorie in Russia, Giordania e Hong Kong. I principali paesi europei restano per ora aperti verso l'Italia e sono ammesse le entrate in Francia e Svizzera dei lavoratori transfrontalieri. Ma ricordiamo che gli stessi italiani possono andare all'estero solo nei 3 casi previsti dal DPCM: lavoro, necessità, salute. Intanto tutte le compagnie aeree bloccano o riducono drasticamente i voli da e per l'Italia, prima di tutto per un calo di domanda, e il traffico negli scali del nord si è già ridotto del 70%, a Roma Fiumicino del 50%. Alessandro Arona, Radio 24, il suo le 24 ore. Dunque da oggi, dicevamo, tutto il territorio nazionale è protetto, sottoposto cioè alle stesse misure restrittive, spostamenti dunque ammessi solo per lavoro, casi di necessità, a cominciare dal fare la spesa naturalmente, e motivi di salute. E il rispetto di queste misure da parte di ognuno di noi significherà la riuscita del contenimento del virus e quindi dare una mano agli ospedali che in queste ore già sono in prima linea e che sono alle prese con una pennata importante di casi. Mentre il governo lavora anche per sospendere mutui e pagamenti delle famiglie, lo ha detto oggi la vice ministra dell'economia Castelli. Una sospensione del pagamento di mutui, bollette e tasse in tutto il paese è una delle nuove misure allo studio del governo per fare fronte all'impatto del coronavirus sulla nostra economia. A confermarlo è anche il ministro dello sviluppo economico Patuanelli, secondo il quale la sospensione punta a garantire più liquidità a famiglie ed imprese e dovrebbe valere già dalla prossima scadenza fiscale del 16 marzo. Nel complesso l'esecutivo sta lavorando ad un pacchetto di aiuti da 10 miliardi di euro, ma si starebbe già ragionando su cifre più alte. Il varo del decreto è atteso per domani, dopo il via libera del Parlamento allo sforamento dei parametri europei sul deficit. Il premier Conte oggi ha convocato le opposizioni per un confronto sui nuovi interventi economici. Dal centrodestra, intanto, il leader della Lega Salvini invita il governo a chiudere tutte le attività, tranne quelle di pubblica necessità, in tutto il paese per 2 o 3 settimane, una richiesta condivisa da Tajani di Forza Italia. Serve una vera zona rossa in tutta Italia, quindi con misure più restrittive se vogliamo salvare vite umane e se poi vogliamo anche salvare le imprese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ancora, come dicevamo, dai medici degli ospedali ai virologi, la richiesta a tutti noi è chiara: limitare il più possibile la vita sociale, gli assembramenti per evitare il diffondersi del virus e far esplodere gli ospedali già sovraccarichi, soprattutto nelle zone del nord. La modalità scelta dal governo è quella della autocertificazione, con cui ognuno di noi può chiarire i motivi dei propri spostamenti. Ma attenzione, perché i militari, i carabinieri e la polizia che effettuano in queste ore i controlli per strada potranno sempre fare delle verifiche e, in caso di dichiarazione mendace, scatteranno le sanzioni. Allora ripetiamo ancora una volta cosa si può, cosa non si può fare e quali sono le sanzioni. Spostamenti solo per lavoro, salute o necessità stringenti, vietata ogni forma di assembramento anche all'aperto, stop a tutti gli eventi sportivi, incluso il campionato di calcio, chiusura di scuole e università fino al 3 aprile. Sono le principali limitazioni in base alle quali l'Italia diventa tutta zona protetta. Stare a casa è imperativo, ci si può muovere solo per esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità come fare la spesa, da giustificare mediante autocertificazione compilata anche seduta stante durante un controllo. Autocertificazioni soggette a verifica: per chi trasgredisce o dichiara il falso sono previste sanzioni fino all'arresto. Non si ferma la circolazione delle merci né il trasporto pubblico, nessuna chiusura per i negozi, bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18, con l'obbligo di garantire la distanza di almeno un metro, pena la sospensione dell'attività. Nessuno stop per alimentari, farmacie e parafarmacie, chiusi ovunque cinema, teatri, palestre, piscine e nel weekend anche i centri commerciali. Sospesi matrimoni e funerali. Stop agli impianti sciistici. Chi ha più di 37,5 di febbre deve stare a casa e contattare il proprio medico. Divieto di muoversi assoluto per chi è in quarantena, pena il carcere fino a 3 anni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in queste ore complicate cerchiamo anche delle buone notizie. Qualche traccia di buona notizia arriva dalle ex zone rosse, dove sono esplosi, lo ricorderete, per esempio a Codogno e nei comuni limitrofi, i primi focolai. È uscito per esempio dalla rianimazione e adesso respira da solo il paziente numero 1, mentre ci sono degli altri guariti che stanno cominciando a raccontare la loro storia, guariti che ormai in quelle zone, ex zone rosse, superano i nuovi contagi. Intanto un'altra notizia è questa: la italiana Dia Sorin ha annunciato in arrivo entro il mese di marzo un test rapido per diagnosticare il coronavirus. Dia Sorin, società italiana leader nelle biotecnologie, ha annunciato di aver completato presso l'ospedale Spallanzani di Roma e presso il Policlinico San Matteo di Pavia le procedure per l'approvazione di un innovativo test molecolare per l'identificazione rapida del coronavirus. Il test, che permetterà di ottenere risultati entro 60 minuti rispetto alle 5-7 ore necessarie con altre metodologie, sarà presentato alla Food and Drug Administration entro la fine di marzo 2020. Sul fronte dei vaccini, intanto, il Miguel Research Institute di Israele ne ha sviluppato uno contro un ceppo di coronavirus che colpisce il pollame. Si potrebbe cercare di adattarlo per creare un vaccino umano contro il Covid-19. A fine febbraio la startup biotech del Massachusetts Moderna aveva annunciato di aver spedito invece il primo lotto di un vaccino sperimentale anti-Covid-19 per avviare la fase 1 della sperimentazione sulle persone. Per Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease, l'orizzonte di attesa prima di avere un vaccino non può essere inferiore a un anno e mezzo. Insomma, prima del 2021 non se ne parla. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È una notizia di pochi istanti fa, anzi appena battuta dalle agenzie, che riguarda la Francia. Il capo del gabinetto del presidente francese Macron, Patrick Zorda, insieme ad uno dei suoi più stretti collaboratori, lavoreranno da casa nei prossimi giorni per motivi precauzionali, ma a quanto risulta potrebbe essere stato a contatto con un caso positivo di coronavirus. Dunque coronavirus che si avvicina davvero moltissimo al capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron. lockdown. Chiudiamo per ora la pagina delle notizie sul coronavirus, ne parleremo ancora nella seconda parte, dove vi anticipo discuteremo con la categoria dei ristoratori. Bar e ristoranti in queste ore sono alle prese con discrete difficoltà, perché a loro è consentito di tenere aperte le loro attività commerciali, ma anche di mantenere il cosiddetto distanziamento sociale, almeno un metro e mezzo. In molti casi questo è davvero molto complicato. C'è un appello di cui vi parleremo nella seconda parte di Effetto Giorno, da parte proprio dei ristoratori. Adesso torniamo a parlare delle rivolte nelle carceri italiane. Dopo le vittime a Modena, 3 detenuti sono morti anche nel carcere di Rieti, sempre come conseguenza dell'assunzione di farmaci. In genere si tratta di metadone, usato per ridurre la tossicodipendenza, che però fuori controllo può diventare letale. Sentiamo. Il giorno dopo resta la devastazione e il rumore del metallo su nuove inferriate, quelle del carcere di Aversa. Il giorno dopo la rivolta in 22 penitenziari, innescata dalle restrizioni ai colloqui per evitare i contagi del virus, si cercano ancora 23 detenuti evasi dalle celle di Foggia, mentre si calcolano i danni di ambulatori bruciati, come a San Vittore, di interi raggi incendiati e saccheggiati, come a Modena, dove 6 detenuti hanno perso la vita. Nel foggiano sono stati catturati 41 evasi, mentre ancora 23 mancano all'appello, incluso un omicida e alcuni affiliati alla mafia del Gargano. Dopo 10 ore sono stati invece rilasciati i nuovi ostaggi sequestrati nel carcere di Melfi, mentre in quello milanese di San Vittore è previsto un incontro tra delegazioni di detenuti e il procuratore aggiunto Alberto Nobili. Quanto alle misure prese, per i 189 penitenziari sono in arrivo 100.000 mascherine e tende per controlli sanitari, ma come ripeterà il guardasigilli in aula, alle proteste legate alle misure antivirus si sono unite quelle di sempre sul sovraffollamento. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulle cause di queste rivolte, l'analisi di Daniele Biacchessi. Il malessere dei detenuti non nasce oggi, nei giorni dell'emergenza del coronavirus. Il vero problema si chiama sovraffollamento. Le restrizioni imposte nei decreti presidenziali rendono la situazione ancora più difficile nelle carceri. Questo è assodato, ma il fuoco cova sotto le ceneri da diversi anni. I detenuti hanno approfittato dell'emergenza per chiedere un trattamento migliore. A San Vittore sono ammassati 1.200, quando la capienza massima ammonta a 700 persone. Il sovraffollamento riguarda tutti gli istituti penitenziari italiani. Ovunque si registra un aumento esponenziale delle presenze rispetto alla reale capacità di accoglienza. 10.000 in più, secondo i dati del Ministero della Giustizia. In questa polveriera certamente si sono inseriti elementi esterni al carcere che hanno favorito le insurrezioni. Ma il pugno di ferro e la repressione servono solo per sedare la rivolta sul piano dell'ordine pubblico, non risolvono la questione alla radice. Ci vogliono ora leggi nuove, una riforma del sistema penitenziario che possa impedire l'ammassamento dei detenuti e un ammodernamento delle strutture, molte vetuste e decadenti. Andiamo all'estero. L'atteso ritiro delle forze militari americane dall'Afghanistan è effettivamente iniziato, anche se l'incertezza nel paese è piuttosto elevata dopo la decisione dell'ex capo di governo Abdullah di autoproclamarsi presidente, nonostante nelle stesse ore e nello stesso palazzo fosse stato formalizzato l'incarico al vincitore delle scorse elezioni, Ashraf Ghani. Sentiamo. Goodbye Afghanistan. I primi militari americani hanno già lasciato il paese, dove appena ieri c'è stato un attentato terroristico e dove c'è una crisi istituzionale gravissima. Le forze militari statunitensi hanno iniziato a ritirarsi dal paese oggi. I movimenti sono iniziati questa mattina dalle basi militari di Laskargan, capoluogo della provincia meridionale di Helmand, e da una base in provincia di Herat, nell'est del paese. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto un voto stasera del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per approvare tramite risoluzione l'accordo di pace che hanno concluso con i talebani il 29 di febbraio. L'accordo prevede il ritiro di circa 12.000 militari americani. I talebani dovranno rispettare i patti, rompere con tutte le organizzazioni terroristiche a partire da Al-Qaeda e avviare i negoziati con il governo di Kabul, governo che al momento è in preda a una crisi istituzionale molto grave. Ieri si è insediato Ashraf Ghani, che si è autoproclamato presidente, così come si è proclamato presidente il suo avversario segretario Abdullah Abdullah. Intanto l'ISIS ha rivendicato l'attacco di ieri a Kabul che ha preso di mira la cerimonia di insediamento di Ghani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora sentiamo come cambiano gli ascolti televisivi se cambiano in tempi di coronavirus. Ai tempi del coronavirus l'Italia si informa soprattutto davanti alla TV e così ieri sera sono stati 10.780.000 gli spettatori davanti alla conferenza di Giuseppe Conte sul TG1 e 4.380.000 sul TG5, 2.250.000 per la 7 ed Enrico Mentana che ha allungato il suo TG con un monologo solitario fino all'inizio di una conferenza stampa che passerà alla storia anche della TV. In una serata difficile il commissario Montalbano, iniziato alle 22, ha fatto il 39% con 9.300.000 spettatori, non il record storico che fu del 45. Ma l'emergenza cambia profondamente i palinsesti. Mediaset aveva già fermato Domenica Live, Verissimo e CR4 per dare più spazio a trasmissioni informative, oltre a Quarta Repubblica con il conduttore Nicola Porro positivo al virus. Ora anche il servizio pubblico ha deciso di fermare alcune trasmissioni. TV Blog anticipa che sono state sospese le registrazioni delle nuove puntate dei Soliti Ignoti. Arrivato anche lo stop per Porta a Porta. Bruno Vespa protesta, gravissimo e pretestuoso. Ha fatto il tampone, è negativo, ha un certificato medico, era disposto anche a collegarsi da casa, spiega. Ma per ora questa è la decisione della RAI. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 16 minuti, ci fermiamo, Effetto Giorno fa un break, torniamo tra poco, aspettiamo anche i vostri commenti nella seconda parte del programma al 349-238-6666 e anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, a tra poco. One Express, il pallet Express. Vi presenta... Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. L'Italia è da oggi una unica zona protetta per il contenimento del coronavirus. La Lombardia pensa di chiudere anche i trasporti. La vice ministra dell'economia Castelli invece parla di stop ai mutui per le famiglie. In quarantena il capo di gabinetto di Macron in Francia. Intanto l'italiana Dia Sorin annuncia un test diagnostico rapido entro il mese di marzo. La rivolta nelle carceri, 23 evasi dal penitenziario di Foggia sono ancora ricercati dalla polizia. In Afghanistan l'esercito americano avvia il ritiro, ma il paese è nel caos con due presidenti autoproclamati. Genova, il nuovo viadotto prende forma, terminato anche il sollevamento dell'impalcato del nuovo ponte. Boom di ascolti in TV per le comunicazioni di Conte, quasi il 40% di ascolti per il ritorno di Montalbano. Tredici e 19 minuti, cari ascoltatori, questi titoli di oggi. Di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, continuiamo ad aggiornarvi per quanto riguarda il coronavirus, perché le notizie che giungono in queste ore dagli ospedali coinvolti sono davvero impressionanti. È con noi Francesco Moioli, responsabile dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale San Matteo di Pavia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie anche per essere con noi in questi minuti. Per questi minuti che insomma riuscite a dedicarci e anche grazie per tutto il lavoro che state facendo, naturalmente lo dico a nome di chi ci ascolta. Numeri in crescita, dicevamo, per quanto riguarda i ricoverati, le persone in terapia intensiva, non solo ultra ottantenni. Ricordo soltanto questa cifra che è stata fornita ieri dall'assessore al welfare della regione Lombardia Gallera. In questa regione il 35% delle persone in terapia intensiva ha tra 50 e poco più di 60 anni. Arrivano anche, a dir la verità, dalle ex zone rosse dove il focolaio è iniziato, alcune embrioni, diciamo così, di buone notizie, perché ci sono guariti che stanno raccontando la loro storia dopo due settimane. Il paziente 1, che è stato curato tra l'altro da voi, ha appena ripreso a respirare da solo. Intanto le chiedo, dottor Moioli, professor Moioli, qual è la situazione in queste ore all'ospedale San Matteo, in particolare nelle unità di terapia intensiva? La situazione è che ci stiamo attrezzando, come abbiamo fatto in queste due settimane a partire dal 21 di febbraio, per accogliere tutti questi pazienti. creando nuove unità di terapia intensiva dedicati a questa patologia. Fortunatamente iniziamo a vedere anche il successo dei nostri sforzi, perché i pazienti iniziano a migliorare e a guarire, per cui possiamo trasferirli dalla terapia intensiva ad un reparto meno intensivo e quindi fa spazio. Senta, professore, le posso chiedere questo intanto: quanto dura il periodo, diciamo, dall'inizio dell'aggravarsi della malattia portata dal coronavirus, periodo poi di terapia intensiva, e quando invece si comincia la vera e propria guarigione? Quanti giorni occorrono? Beh, questo è un po' presto per dirlo con sicurezza. Direi che dai primi casi di miglioramento che abbiamo osservato ci vuole almeno una settimana di terapia intensiva, a volte anche due. È molto importante che in questo periodo non sopravvivano complicanze. Senta, a proposito del dato che ricordavo prima, perché ancora devo dire, giustamente molte persone cercano magari di scacciare le preoccupazioni, però sbagliando, di minimizzare. Sentivo ancora ieri dire si tratta di persone con gravi patologie, ultraottantenni, anche ammesso che degli ultraottantenni con delle patologie uno se ne possa, come dire, uso una brutta espressione, infischiare, ma naturalmente non è così. Abbiamo tutti genitori e nonni che ci stanno a cuore. Però questo dato sull'età media delle terapie intensive, almeno per quanto riguarda il San Matteo, voi naturalmente non potete, diciamo, per la privacy riferire casi personali particolari, però questa età media 50-60 anni in un terzo dei casi circa corrisponde a un dato di realtà che può essere anche definito preoccupante? Il dato corrisponde alla realtà. Anche qui a San Matteo abbiamo in cura delle persone giovani, lui era il paziente 1, ma anche una paziente che è migliorata anche prima di lui, che aveva 15 anni di meno. Quello che si può dire è che il virus colpisce anche le persone giovani e lo può fare anche nella forma grave. Però è ovvio che essere una persona giovane, in salute, senza comorbidità, ci dà più armi e più chance per superare questa difficile prova. Senta, ci sono, se avete, come dire, necessità di segnalare o avete già segnalato problemi di approvvigionamento, mancanze di materiali o limiti nei posti letto? Lei in apertura ci ha detto che avete fatto ogni sforzo, avete aumentato le unità di terapia intensiva. In questo momento c'è carenza di qualcosa da voi? No, in questo momento non abbiamo di questi problemi. Direi che il Policlinico San Matteo è stato una delle prime strutture a reagire a questa emergenza, creando subito un'unità di terapia intensiva dedicata e poi allargando, replicandola, diciamo, in queste due settimane. Quindi da 5 posti letto siamo arrivati agli attuali 24, che sono in ulteriore aumento. Quindi cerchiamo sempre di anticipare il problema e non farci trovare impreparati. E per quanto riguarda la presenza di medici, infermieri, avete delle necessità particolari? Immagino che si stiano facendo turni sempre più stressanti. C'è una, come dire, una capacità di reggere a questo ritmo prevedibilmente ancora per giorni, o sarà necessario? Si è parlato anche di trasferimento, per esempio, di unità da un ospedale all'altro. Io parlo per, cioè, chiedo a lei per il San Matteo, però se ha notizia, diciamo, di questo anche un po', forse nell'altra realtà ospedaliere lombarde, se è in grado, diciamo, di dircelo. Allora, per quanto riguarda San Matteo, non abbiamo attualmente problemi di personale, anche perché tutta l'attività elettiva è stata giustamente bloccata. Quindi abbiamo potuto riconvertire, diciamo, il ruolo di tanti sanitari, sia medici che infermieri, per gestire questa emergenza. È chiaro che tutti quanti stiamo facendo un grosso sforzo, vedo però una grande dedizione, un grande entusiasmo tra di noi. So anche che si sta stanno approntando delle misure per aiutare le strutture che stanno più sopportando il peso di questa emergenza, quindi con nuove assunzioni piuttosto che il trasferimento di medici. E alcune strutture, sia private che pubbliche, ci stanno chiamando dicendo che sono a disposizione, diciamo, per prestarci i loro medici. Senta, allargando lo sguardo e uscendo fuori anche dall'ospedale, insomma, San Matteo di Pavia, che cosa ne pensa delle misure che sono state adottate con l'ultimo DPCM che ha esteso a tutto il territorio nazionale queste forti misure restrittive, soprattutto l'impossibilità di spostarsi se non per motivi di lavoro, lo ripetiamo, o necessità stringenti o motivi di salute? Che cosa ne pensa? Ma io penso che noi stiamo facendo la nostra parte all'interno delle mura dei nostri ospedali e ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile, ma abbiamo anche bisogno dell'aiuto e della collaborazione da parte del cittadino comune. E questo vuol dire cercare di adottare il più possibile dei comportamenti che limitino il numero di nuovi casi. Perché chiaramente qualche giorno fa ho detto che avremmo fatto il possibile e anche l'impossibile, però non si deve esagerare. Grazie professor Moioli, grazie davvero per essere stato con noi, buona giornata, soprattutto buon lavoro e grazie ancora per il lavoro che sta facendo, responsabile della terapia intensiva del San Matteo di Pavia. Velocemente alle 13:27 minuti proviamo a raccontarvi anche una buona notizia. Si tratta del completamento dei lavori di sollevamento dell'impalcato cosiddetto, cioè di tutte le parti che vanno a costituire quello che sta per diventare il nuovo ponte sul Polcevera a Genova. Era ancora buio stamane quando la campata da 100 metri è arrivata in quota e la campata che il 14 agosto 2018 crollò. L'immagine del viadotto che ora scavalca di nuovo il Polcevera si staglia nel panorama di questo pezzo di città e oggi più che mai vale non solo per Genova come un simbolo concreto di reazione e di speranza. Un ponte che avanza per unire mentre tutto attorno adesso occorre isolarsi. Così Roberto Carpaneto di Rina Consulting. Con questo ormai siamo a praticamente 2/3 se non di più dell'impalcato totalmente sollevato, però c'è un altro cantiere completamente che sta proseguendo il suo lavoro, che sono le attività che vengono svolte in quota sugli impalcati già posati. Tra una decina di giorni inizierà il varo dell'ultimo impalcato, quello che sovrasterà la ferrovia, e sarà un'operazione ancora più delicata rispetto a quella conclusa poche ore fa. Poi ci vorranno 3 mesi per i collaudi e gli allestimenti. Non ci circolano date ufficiali, ma l'inaugurazione del nuovo ponte potrebbe avvenire il 21 giugno. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:29 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno e racconteremo anche di come se la stanno passando in queste ore i ristoratori, in particolare saremo a Milano perché le attività commerciali in questi giorni sono possibili, è consentito di svolgerle, però rispettando le distanze di 1 metro. Ma è possibile all'interno di un ristorante, per esempio, mantenere la distanza di 1 metro? Questo sembra molto complicato, ecco perché c'è un appello da parte di alcuni ristoratori lombardi a cambiare ancora le normative previste, stringere ancora di più i decreti. A tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus. Italia è un'unica zona protetta. Da oggi in quarantena. Intanto il capo di gabinetto di Macron in Francia. Crescono i controlli alle frontiere. La vice ministra dell'economia Castelli parla di uno stop ai mutui e alle bollette per le famiglie. La rivolta nelle carceri. 23 evasi da Foggia sono ancora ricercati dalla polizia. 3 le vittime anche a Rieti per l'abuso di farmaci. In Afghanistan l'esercito americano avvia come previsto il ritiro, ma il paese è nel caos con 2 presidenti autoproclamati. Boom di ascolti in TV per le comunicazioni di Conte ieri sera e quasi il 40% di share per il ritorno di Montalbano su Rai 1. 13:36 minuti, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno e buongiorno da Alessio Maurizi. I vostri messaggi al 349-238-6666 o anche sulla pagina Facebook del programma. Allora, c'è un ascoltatore, Michele, che ci manda un messaggio lungo e inizia così, citando Flaiano, dice: la situazione italiana è tragica, ma non è seria. Pensavo che avessimo toccato il fondo, ma mi sbagliavo, abbiamo smarrito anche il senso del ridicolo. E poi va avanti. Questo è un po' un classico, no, italiano, purché non diventi una profezia, caro Michele, che si autoavvera. Siccome non siamo mai seri, continuiamo a non esserlo e anzi quasi a gongolarci di questa cosa. È il momento di essere seri, essere responsabili, ognuno di noi, anche se, e tra poco ne parleremo, le misure restrittive, la zona protetta aprono ad alcuni dubbi. È un momento di grande sintonia anche dal punto di vista politico, non vogliamo interrompere questo momento di collaborazione che ci deve essere, un momento di emergenza, però adesso riprenderemo tra poco i dubbi di qualche giornale. Il Messaggero, che scrive: troppe falle, lo Stato imponga la sua legge, a proposito dell'autocertificazione o del tema dei ristoranti aperti. Intanto sentiamo il punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. C'è un aspetto sottovalutato nella gestione della quarantena nazionale: la percezione che l'Italia focolaio ha riverberato nel mondo. La British ha annullato i voli da e per l'Italia, la Brussels Airlines azzera i voli per la capitale belga. Eravamo off limits già per almeno un'altra ventina di stati e ora la lista si allunga. Il Brennero poi rischia di diventare una frontiera chiusa ed è come se il corpo dell'economia del nostro paese si trovasse strozzata l'aorta. È evidente che l'operazione della zona arancione per tutta l'Italia ha come sottostante la considerazione che si tratti di una misura di durata molto limitata, magari un paio di settimane. In quel caso, alla fine, sarebbe stato come se l'Italia si fosse messa in ferie e avesse trasformato il mese di marzo in un agosto anticipato. Ma c'è un ma. Se la prospettiva del breve termine non fosse supportata dalla realtà, che succederebbe? È la domanda che speriamo si stiano facendo in Consiglio dei Ministri e soprattutto nel Consiglio d'Europa, perché serve una risposta forte e decisa, una risposta unitaria di entità colossale, perché alle devastazioni che sta facendo questo essere infinitamente piccolo non si può che rispondere con misure infinitamente grandi. Allora, come dicevamo, senza voler aprire delle inutili polemiche, però ci sembra che, per esempio, l'editoriale di oggi sul Messaggero di direttore Cusenza sottolinei un punto che merita di essere spiegato e approfondito. Scrive: un brivido ci ha colto dopo aver letto il testo del nuovo DPCM. Necessità. Chi stabilisce un concetto talmente labile? Almeno avessero scritto causa di forza maggiore, ma tant'è. Poi è sopraggiunta l'indignazione, scrive il direttore del Messaggero, perché con una simile formulazione si amplia a maglia assai larga il novero di coloro che possono scorrazzare anche in quelle zone con percentuali di contagiati ancora non allarmanti e quindi è proprio per questo da preservare. Il punto è quello dell'autocertificazione. Cosa si può autocertificare? Cosa è necessario? Cosa no? È un arbitrario forse stabilirlo, così come anche noi ieri abbiamo detto il fatto che i negozi possano comunque essere aperti, si presume, ma è un punto che ha sollevato anche l'assessore al welfare della Lombardia Gallera, che uno possa andare al parrucchiere o in lavanderia o in copisteria o al bar o al ristorante. Sono queste delle necessità, possono essere definite delle necessità, dipende. Forse, però, se si vuole davvero far stare la gente a casa, diminuire la socialità, forse bisognerebbe essere ancora più chiari. E addirittura in questo senso c'è un appello di alcuni ristoratori milanesi. È con noi Danilo Ingannamorte, titolare del ristorante Erba Brusca di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi interpellato. Allora, voi avete fatto, appunto, lei ha fatto partire questo appello ad intervenire ancora con più nettezza di quanto invece è stato scritto nel DPCM. Adesso ci spiegherà questo appello, che nasce dalle condizioni nelle quali vi siete trovati a lavorare in questi primi giorni di applicazione. Che cosa, com'è andata, cosa accadeva, come si comportavano i clienti e che difficoltà avete avuto voi? Le difficoltà erano già presenti prima che si dichiarassero le nuove zone restrizione maggiore. Noi ci eravamo trovati tra amici e colleghi per capire come poter autodisciplinarci prima che si stringesse il tutto, e poi quando è scoppiato, diciamo così, le nuove restrizioni, ci siamo dovuti ad affrontare un altro quesito, e leggendo il decreto, cioè la domanda che siamo fatti subito è come facciamo a far rispettare le misure che ci dicono che devono essere rispettate. La distanza di un metro almeno. La un distanza metro di un metro. Io vi faccio un esempio banale che è successo nel mio ristorante questo domenica pranzo in cui siamo rimasti aperti perché ci hanno colto di sorpresa, adesso siamo già chiusi. E io ho distanziato tutte le sedute, tutti i tavoli, però quando ho raccomandato alle persone di sedersi un pochino più a distanza ho girato le spalle, dopo due minuti erano tutti su un lato del tavolo, tutti ben vicini uno all'altro. Cioè lei ha fatto presente ai clienti, ma poi i clienti fanno come gli pare. Purtroppo non si può. Ci sono anche casi in cui sono scattate le multe, tra l'altro, no? Perché, questo nel senso... Perché è un obbligo da rispettare. Esatto, sì. A rischio chiusura, comunque anche multe, e comunque si va nel penale, nel senso non è... uno scherzo, non ma è uno scherzo. Non critichiamo questo. Motivo per il quale siete arrivati, lei ha dato il via a un appello. Che cosa chiedete in sintesi al governo? Che cosa proponete? Noi proponiamo di chiudere tutto, bar e ristoranti. Non ha senso stare aperti in queste condizioni, è fuorviante, potrebbe generare confusione, potrebbe anche in qualche modo generare per chi vorrebbe rimanere aperto delle difficoltà ancora più grandi e soprattutto stiamo proprio allontanandoci dall'obiettivo da raggiungere tutti quanti insieme, ristoranti, tutti i cittadini insieme. La nostra preoccupazione per i nostri dipendenti, per i nostri clienti, per tutta la comunità è quella che forse, come si diceva prima, forse è meglio limitare nel tempo le restrizioni ma renderle farle magari per 3 settimane, però farle bene, poi cercare di ripartire quel punto con serenità. Quanti ristoratori, quanti titolari di attività vi siete tirati indietro? Perché può apparire una posizione molto molto estrema dal punto di vista di chi tira fuori un reddito per la propria famiglia dalla propria attività, no? Cioè quasi autolesionistico. Questo ovviamente è stato condiviso all'inizio da centinaia di ristoratori, ma adesso la cosa si è allargata molto e penso che anche le nuove condizioni, le nuove notizie che girano, l'annuncio della regione di voler comunque chiudere tutti i negozi, penso che convincerà anche chi è ancora titubante a fare la stessa cosa. Senta, e vedremo poi naturalmente nelle prossime ore se questo appello, che è anche una petizione, riceverà nuove sottoscrizioni. Intanto ci sembrava un punto di vista molto responsabile, che meritava attenzione. Un'ultima cosa le voglio chiedere è questa: è possibile che il governo si sia mosso così, con questo spazio di ambiguità, lasciare le attività commerciali aperte pur essendo ridotto al minimo il numero di casi per cui è consentito spostarsi, per evitare di mettere ginocchio anche dal punto di vista economico il settore? Che indicazioni avete avuto di possibili aiuti che potranno arrivare ai ristoratori in particolare, che sono tantissimi in tutta Italia? Allora, il problema è proprio questo: al momento non ci sono indicazioni chiare, siamo fiduciosi che arriveranno e arriveranno presto. Vi faccio riflettere su una cosa: la maggior parte di queste attività sono attività piccole, certo, con pochi dipendenti, che quindi non rientrano nei soliti canali per gli ammortizzatori sociali, quindi siamo un po' in un limbo che deve essere in qualche modo chiarito, però la situazione è talmente generalizzata che non posso immaginare che non ci sia un intervento in qualche modo forte e per questo, per questo settore. Io la ringrazio, Danilo Ingannamorte del ristorante Erba Brusca, primo firmatario di questa petizione per la chiusura dei ristoranti. Le dico soltanto questo: Maria Luisa scrive, questo ristoratore merita una medaglia per il buon senso. Va bene, 13:45 minuti, siamo al momento della pagina sportiva che si aprirà dopo le 14. Ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Beh, sport a parole per ora. Sì, sport a parole, ma anche... Mai come in questo momento, però anche sport agonistico, sebbene a porte chiuse, perché stasera l'Atalanta gioca a Valencia, una delle partite più importanti della sua storia, e comunque nel calcio europeo si gioca a porte socchiuse. Perché socchiuse? Socchiuse perché non vale per tutti, non vale per tutte le partite delle competizioni europee. Ad esempio in Inghilterra si gioca a porte aperte, In Spagna no, in Spagna, che è strettamente in contatto con le italiane, perché appunto l'Atalanta gioca a Valencia, giovedì l'Inter riceverà il Getafe, ovviamente a porte chiuse, ma qui a San Siro. La Roma giocherà a Siviglia a porte chiuse, è stato deciso nelle ultime ore, si giocherà a porte chiuse anche Barcellona-Napoli della settimana prossima, però il senso è che per il momento, e questo è il nodo più importante, l'UEFA tiene aperte le attività agonistiche, europei compresi al momento, ma è chiaro che delle decisioni dovranno essere prese in proposito e si naviga anche qui a vista. Quindi però anche i temi di discussione per voi sono anche un po' questi, insomma. Sono tanti, sì, ma anche perché poi ci sono altri sport, ad esempio si corre in Australia, prima gara del mondiale di Formula 1, nel prossimo weekend in condizioni normali. E poi ci tengo a dire che l'attività sportiva si può fare, cioè all'aria aperta, nel rispetto delle distanze, perché anche questo è un dubbio che era venuto. Vado a fare una corsetta al parco, lo posso fare? Sì, abbiamo verificato, si può fare. Fa pure bene. Grazie Carlo. Consigliabile, a dopo. Appuntamento con tutti convocati dopo il GR delle 14, noi torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli e l'Effetto Mondo.